Erich Priebke è stato scovato nel 1994 a Bariloche, in Argentina, dove viveva indisturbato. Estradato in Italia e processato a Roma, è stato riconosciuto colpevole della morte delle 5 persone in più portate per errore alle Fosse Ardeatine. Secondo Priebke, si trattava di pericolosi testimoni oculari da eliminare. Nel 1997 è stato condannato all'ergastolo. Erich Priebke è morto l'11 ottobre 2013, a 100 anni, nella sua casa dove scontava gli arresti domiciliari concessi per l'età avanzata dopo la condanna all'ergastolo del 1998. Il suo funerale e la sua sepoltura sono stati oggetto di polemiche legate alla ferocia della strage avvenuta alle Ardeatine e sulla causa che provocò la furia nazista, ovvero l'attacco di Via Rasella. Infatti, proprio l'attacco di Via Rasella negli anni ha suscitato molte polemiche e molti interrogativi. Qual era il vero obiettivo di Via Rasella? Se avessero saputo della rappresaglia, i partigiani lo avrebbero fatto lo stesso? E soprattutto, se si fossero consegnati ai tedeschi, avrebbero potuto evitare il massacro delle Fosse Ardeatine? Ed è proprio Erich Priebke che nel corso della pubblica udienza del 3 aprile del 96, di fronte al Tribunale Militare di Roma, a rilasciare la sua versione dei fatti sul comportamento delle truppe tedesche. Buona via la Zanna, questo è stato noto, che i GAP comunisti italiani hanno fatto un attentato contro una compagnia della polizia tedesca, tutti uomini dell'Alto Adige, vuol dire cittadini italiani. E questo attentato fu fatto sapendo loro che dopo l'attentato viene la rappresaglia. Perché Kesselring, quando ha preso il suo comando qui in Italia, Kesselring, ha messo sotto le mura un avviso che qualunque attentato contro i tedeschi viene una rappresaglia. Allora questo era ben saputo e loro hanno fatto questo proprio a proposito. Questo è Erich Priebke. Ascoltiamo ora Carla Capponi, che partecipò all'attacco di Via Rasella, e Giorgio Amendola, comandante dei GAP partigiani, intervistato da Gianni Bisiak nel 1974. Molti ci hanno chiesto se avessimo saputo prima che ci sarebbe stata questa grossa rappresaglia, se noi ci avremmo fatto l'attacco o se ci saremmo offerti subito dopo per consegnati ai tedeschi. Questi sono due argomenti. Sul primo argomento dico che noi l'avremmo fatto lo stesso, perché non possiamo, la resistenza non può prescindere dall'esistere senza pensare che poi il nemico si avvarrà di tutti gli strumenti che ha per le ritorsioni, questo non c'è dubbio, ma il nemico va combattuto comunque. In realtà non ci fu nessun invito a presentarsi. Caprio lo ha anche dichiarato, volevano fare presto. Noi fummo avvisati dopo. Del resto, ho sempre dichiarato, non ci saremmo presentati, perché noi eravamo come un reparto in guerra e non potevamo consegnarci al nemico in quel momento. L'unico nostro impegno è di continuare a lottare. Mix 24, la storia. Alessandro Portelli, professore alla Sapienza, considerato tra i fondatori della storia orale. Buongiorno. Buongiorno. La strage delle Fosse Ardeatine si poteva evitare? Ma certo, potevano evitarla i tedeschi. Nessuno li ha costretti a farla e non è che gli sia servito a vincere la guerra. Si poteva evitare, ma i tedeschi non l'hanno evitata. Alessandro Portelli, lei nel suo libro L'ordine è stato eseguito ha intervistato più di 200 persone di 5 generazioni e di diversissima estrazione sociale e politica, compresi fascisti ed ex fascisti. C'è una testimonianza che l'ha colpita di più? Beh, se le vede il libro, per esempio quello della signora Ada Pignotti, che è un po' il filo narrativo. Era una persona che aveva la terza elementare in un paese dell'Abruzzo, ma era una donna di straordinaria intelligenza e sensibilità, che a cui hanno ucciso il marito all'età di anni 24, non avevano mai fatto politica né lei né lui prima, ma lei si è assunta un compito di memoria che ha condotto con straordinaria dignità fino a quando purtroppo è mancata qualche anno fa. In che modo? Parlandone nelle scuole, svolgendo attività nell'associazione delle famiglie, aiutandomi anche molto. Come l'ha aiutata? Ma intanto appunto con quella meravigliosa intervista in cui diciamo che mi ha proprio aperto il modo con cui poi ho guardato tutte le altre. Poi appunto è venuta spesso, siamo andati spesso insieme in diverse situazioni a raccontare, a discutere questa vicenda, e la lucidità combinata con la visibile sofferenza di questa signora permetteva di mettere tutto nella giusta prospettiva. Hanno un'eredità comune in qualche modo le testimonianze dell'una e dell'altra parte? Quale altra parte? Appunto, partigiani e fascisti che ha intervistato? No, direi di no. I fascisti, come peraltro molte forze del conservatorismo cattolico nel dopoguerra, hanno come principale obiettivo quello di raccontare questa falsa narrazione in cui alla fine la colpa non è quella degli assassini che hanno ammazzato le 335 persone, ma quella dei partigiani che appunto secondo loro avrebbero potuto evitarlo. Sappiamo benissimo che non è così, lo ha dichiarato lo stesso Kesselring, comandante dell'armata tedesca, e quindi diciamo la funzione puramente strumentale della narrazione fascista e della narrazione della destra cattolica è un po', che entra un po' nel senso comune, non ha niente a che vedere con la complicata relazione che i partigiani hanno con questa vicenda. Complicata? Complicata nel senso che sanno, almeno io ho parlato con tutti quelli che erano ancora in vita, purtroppo non è rimasto quasi nessuno ora, ma erano tutti fermamente persuasi della giustezza della loro azione, profondamente addolorati del modo con cui i nazisti e i loro alleati fascisti italiani avevano risposto a questo atto di guerra, a questo legittimo atto di guerra, come ha detto poi anche i nostri tribunali, e lacerati dalla relazione fra un atto giusto che viene assunto come causa di una profonda ingiustizia. Erano quindi diciamo non inconsapevoli del dolore che era seguito, ma anche convinti di quello che facevano. Cioè, ci sono stati 60 milioni di morti in questa guerra, quindi noi spesso parliamo come se gli unici morti fossero le vittime delle ardiatine. Abbiamo avuto migliaia di morti a Roma per i bombardamenti, abbiamo avuto 2.000 ebrei deportati, abbiamo avuto 900 deportati dal Quadraro, abbiamo avuto 600 carabinieri deportati prima ancora della deportazione degli ebrei. Cioè, è stata una tragedia immane, e la pretesa di rovesciarne il senso falsificando il racconto su Via Rasella è appunto una cosa anche moralmente indugna. Ci può essere una pacificazione su questo evento, o anche questo forse strumentale? Guardi, io so che Rosario Bentivegna, che tutta la vita è stato sotto attacchi anche minacciosi, aveva cercato il dialogo per esempio con Mazzantini, che poi è della Margherita Mazzantini, fascista non pentito da quello che mi hanno detto, poi non lo so se è vero, e hanno fatto anche un libro insieme intitolato C'eravamo tanto odiati. Ma questa è la buona volontà di due persone. Sul piano della riconciliazione della memoria basta pensare alla irresponsabilità di una persona come Pippo Baudo, che ha ripetuto senza sentire il bisogno di informarsi la falsa narrazione davanti a milioni di telespettatori. Ha ripetuto in televisione la leggenda secondo cui i partigiani erano stati invitati a consegnarsi e non lo fecero. Sì, non sono stati invitati assolutamente, nella nostra storia Amendola dice io anche se l'avessero chiesto noi non ci saremmo consegnati. Ovviamente. Esattamente, perché come che fai la guerra e poi quando vinci una battaglia ti consigli no, ma la falsa narrazione fascista e diciamo diventare senso comune è che i partigiani furono invitati e non lo fecero. Sappiamo che non è vero, ma molta gente lo ripete, e fra questi quello che più mi ha colpito è stato Pippo Baudo in televisione. Le fosse ardeatine e oggi cosa rappresentano per Roma? Ma qui diciamo Roma è una metropoli talmente complicata che è difficile dare un significato unico. Penso per esempio alle migliaia di migranti che vengono dal resto del mondo e che non ne sanno neanche nulla. Ma direi che le fosse ardeatine sono il vero monumento all'unità democratica di questo paese. Questo per la composizione delle persone che ci sono sepolte, per la bellezza del luogo, per il fatto che è uno dei rari monumenti moderni veramente ammirevole. Insomma, un simbolo molto importante che direi senz'altro di sì. È bene onorare per la memoria del paese. Grazie Alessandro. Grazie Portelli. A lei. X24.